La Terra Crema è un progetto complesso che appunto ha come giorni clou e di maggiore visibilità queste tre giornate a Leoncavallo, dove arrivano più di 100 tra vignaioli, agricoltori che noi definiamo resistenti e partigiani un po' da tutta Italia, ma è anche un progetto che nasce in un territorio specifico tra due parchi agricoli, il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco del Ticino, e appunto il Folletto, e è un po' l'evoluzione anche di quella grandiosa esperienza che è stata Critical Wine dei centri sociali e Veronelli, insomma. E la Terra Trema è un po' quell'evoluzione lì, nel senso che noi abbiamo scelto di occuparci di guardare il mondo e il modo in cui viviamo attraverso l'agricoltura. Poi noi appunto, vivendo ad Abbiate Grasso, e essendo collocati geograficamente in un territorio con vocazione agricola e con tutta una serie di problematiche, siamo anche, alcuni di noi sono figli di agricoltori e quindi questi sono i temi, insomma. Ma è un progetto complesso e che ha tanti sguardi, insomma. E niente, insomma, quest'anno è il quinto anno che arriviamo a Leoncavallo dopo mesi di preparazione. Ci sembra che ogni anno ci sia sempre pezzi che si aggiungono, stimoli nuovi e niente, quindi è sempre una grossa fatica, però anche quest'anno adesso stiamo sistemando il Leo, montando gli stand e preparando il tutto. Ecco, come l'avete organizzata l'edizione di quest'anno? Ecco, cosa c'è di particolare, cosa c'è in più rispetto alle volte scorse? E allora, quest'anno è un po', vabbè, c'è uno slogan che è preparatevi a detestare il buono che avanza, che un po' riprende, ci sembrava il momento giusto per mettere a fuoco alcuni temi, soprattutto che abbiamo vissuto nei nostri territori e che a Milano, nel senso che comunque quando si parla di agricoltura, di territorio, di ambiente, di sviluppo sostenibile, spesso si usano questi temi per poi nascondere dei progetti infrastrutturali devastanti. Il paradosso che abbiamo di fronte è ad esempio l'Expo, che a Milano c'ha un titolo Nutrire il pianeta, Energia per la vita, in cui appunto Slow Food ha in qualche modo fatto da foglia di fico a quello che è a tutt'oggi, anche se alcune cose ci sono dei segnali di dimensione di tendenza, una nuova giunta e così, però dietro lì ci sono poi gli interessi di chi ricorda centinaia di metri cubi di cemento, quindi questo è una roba che volevamo segnalare in modo forte. E poi, come ogni anno, ci saranno degli incontri più particolari, siamo contenti di ospitare il vino Lottavi, il rosso di Chiomonte, che è tra l'altro una DOP, ci sarà la cooperativa Clarea, ci sarà Andrea Turio che ha le sue vigne nel cantiere, non cantiere, alla Maddalena, quindi ci porterà un racconto del suo lavoro e di un territorio che sta vivendo una situazione particolare come quella che è della linea TAV Pino-Lione, quindi sempre attraverso il racconto di un prodotto della terra, di un vino particolare, tra l'altro appunto, e di un territorio che sta vivendo un momento di opposizione popolare, di lotta e così. Poi avremo il solito appuntamento con Gigi Bruzzoni del seminario permanente Veronelli, e con lui gli abbiamo dato questo stimolo, questa una sorta di provocazione, nel senso che comunque Gigi lo conosciamo da anni, è una persona che comunque fa parte di quel mondo tradizionale, se vogliamo, quel mondo che guarda il vino in un certo modo, e anche appunto è il curatore di una guida, no? Quindi punteggi, bicchieri, stellette, queste cose qua, che noi non sono mai stati il nostro riferimento quando ci relazionavamo col vino e con i vignaioli. Però dall'altra parte Gigi è una persona che a livello formativo ci ha dato un sacco di stimoli e di racconti e anche saperi tecnici e scientifici intorno al mondo del vino, e con lui vorremmo provare a fare un discorso che avevamo iniziato a fare anche al Folletto, qua ad Abete Grasso, con alcuni vignaioli, sul gusto, su come il gusto del vino è omologato, ha dei parametri spesso simili, uguali, o tutti sono alla ricerca di questa cosa qua, e mentre viene un po' trascurata quella che è poi il percorso singolare delle persone, sfatando un po' anche tutta una serie di dogmi all'interno del mondo del vino e così. E questo è un po' il fulcro anche della Terra Trema, nel senso che comunque negli anni abbiamo incontrato vignaioli e vini che non facevano parte, non erano riconosciuti da giornali, giornalisti e addetti ai lavori, ma che poi pian piano hanno trovato un loro modo di esprimersi. E con Gigi degusteremo, faremo proprio una degustazione con lui di un vino contadino, cosiddetto contadino, un vino enologicamente perfetto, un vino a lunga macerazione e un vino industriale, semi-industriale, quindi proveremo un po' facendo questa degustazione, anche lanciando un po' gli stimoli che ti dicevo. Poi ci sono tante altre cose, ci sarà Giacomo Ruio, che è un altro produttore ormai affezionato, storico della Terra Trema, che fa il pastore, alleva la capra nera verdaschese nell'Uinese, sul montagna, e farà un po' un racconto di questa capra che è un po' stata riscoperta, che ha una storia particolare, e anche lui ha un modo di lavorare particolare, e ci sarà quindi una degustazione, un racconto anche qua di territorio, insomma. Poi proietteremo Genuino Clandestino, che è un movimento di resistenza contadina, che hanno fatto questo documentario con Nicola Grisano, col collettivo di Inso TV, che è un movimento che un po' affronta il tema dei neocontadini, quelli che noi chiamiamo anche neorurali, fuori un po' dal giro della grande agricoltura, delle certificazioni, dei contributi europei, e che spesso il loro lavoro viene un po' ostacolato da tutta una serie di norme normative che impediscono un po' di commercializzare, di fare il loro prodotto, che spesso si tratta di produzioni piccole, quindi appunto Genuino Clandestino faremo un po', proietteremo questo documentario, questo film, e ci saranno un po' di produttori e probabilmente anche il regista. Poi c'è una fitta e interessante programmazione musicale, termineremo sempre con dei concerti e delle serate di musica, insomma anche lì molto ricercato, molto interessante, un po' sull'onda di quello che è il lavoro invece che facciamo come Folletto, con il nostro piccolo spazio occupato qua da Abete Grasso, che è sempre stato un po' alla ricerca di un certo tipo di genere, di musica e di ricerca. Ci saranno Kazuma, che è Deda, MC di Isola Posse, che adesso porta avanti un nuovo progetto funk, disco, i Mombu, che anche loro arrivano, sono degli Zoo e dei Neo, e Grosso Macal di Massimo Volume, Bellini, che sono Uzeda e altri due componenti degli Stati Uniti, Minella, che è DJ di Radio Popolare del Sabato del Villaggio, e poi dei concerti blues al Baretto. L'altra cosa che non manca mai alla Terra Trema è la parte invece della cucina, nel senso che la cucina pop del Leo, ormai con la Terra Trema è stata investita da questo modo di lavorare, di gestire la cucina del Leoncavallo, che sforna migliaia di pasti all'anno, e siamo riusciti negli anni a far sì che questa cucina utilizzi le materie prime dei produttori che partecipano alla Terra Trema, che c'è una carta dei vini con i vignaioli della Terra Trema, e durante la Terra Trema ci saranno delle cene spettacolari con, appunto, usando i prodotti degli agricoltori presenti. E poi quest'anno, come l'anno scorso, ci sarà anche il pesce fritto della cooperativa del Golfo, che è una cooperativa siciliana di pescatori catanesi, nel catanese, che fa tutto un lavoro di pesca sostenibile, ricercata con tecniche tradizionali, che porterà pesce freschissimo sia per le cene, e poi farà pesce fritto tutti i giorni. Quindi, insomma, Ecco, ricordiamo Paolo anche quelli che sono poi gli orari, insomma, di apertura, sì, di questo evento. Sì, l'apertura degli stand è dalle 15 alle 22 venerdì e sabato, mentre domenica dalle 13 con pranzo fino alle 8 di sera con cena. Questi sono gli orari, e poi vedo alle 21 circa, 22 i concerti, le serate. Ecco, come funziona? Uno arriva, paga l'ingresso, gli allora, viene dato un paga calice. L'ingresso è a sottoscrizione di 8 euro, ti viene consegnato un calice di vetro e poi lì iniziano le danze, l'esperienza sensoriale e di festa e di gioia. All'interno degli stand ci sono più di 80 vignaioli, con quindi non so quantificare quanti tipi di vini, e un 25, diciamo così, chiamiamoli extra vino agricoltori, con salumi, farine e così di questo genere. C'è la possibilità di degustare e chiaramente di acquistare i prodotti. Ecco Paolo, veniamo un attimo, volevo affrontare con te anche la questione della candidatura di Domenico Finiguerra a sindaco di Abbiategrasso, no? Ecco, come la vedete voi come Folletto questa candidatura? Noi, guarda, sul territorio ci siamo, perché è un po' un'esperienza di continuità anche legato al lavoro che abbiamo fatto, cioè la terra trema e il lavoro che fa il Folletto nasce un po' delle battaglie contro dei progetti infrastrutturali qua nel territorio, che sono la costruzione della superstrada Milano-Malpensa e l'inceneritore. Questa superstrada dovrebbe attraversare appunto quello che dicevo inizialmente, il Parco Agricolo Sud e il Parco del Ticino, mangiando, erodendo territorio agricolo. È stato lì un po' l'inizio delle nostre battaglie e il nostro interessarsi di terra e di agricoltura qua nel territorio. E queste battaglie le abbiamo condivise con gli agricoltori e con Domenico Finiguerra, che è sindaco di un piccolo paese qua a 3 km da Abbiategrasso, che si chiama Cassinetto di Lugagnano, e lui è stato l'unico amministratore che si è sempre speso su questo tipo di battaglie, di sensibilità, e l'ha sempre fatto anche passando un po' per una cosa strana, mal visto da tutte le altre forze politiche, soprattutto dai comuni grossi come Abbiategrasso. Adesso, e con lui abbiamo sempre condiviso queste cose, abbiamo condiviso anche i lacrimogeni in Valsusa con Domenico Finiguerra, è uno di quei sindaci che si è sempre posto in modo chiaro e netto contro quel tipo di progetti, di megaprogetti e di sguardo ai territori e modalità di sviluppo. Adesso Domenico ha deciso di candidarsi qua ad Abbiategrasso, la nostra città, lui tra l'altro è abbiatense, e ha deciso di farlo senza nessuna forza politica, senza nessun partito, cioè è neanche una lista civica, sta diventando adesso una lista civica, è un gruppo di persone che è partito da lui e persone che appunto hanno condiviso queste battaglie, questi sguardi qua ad Abbiategrasso, è incredibile, mai visto in un paese di 30.000 abitanti, abbiamo fatto riunioni con 300 persone e stiamo gestendo tutto il processo in modo assembleare. E questo, come fai a non starci in una cosa del genere? La stiamo attraversando con grande interesse, uno perché appunto Domenico finora si è dimostrato una persona corretta, un politico sui generis, non ha tessere di partito in tasca, e due perché appunto, cioè, quando si fanno le presentazioni pubbliche, quando si prendono le decisioni, le si prendono come le prendiamo al Folletto e come siamo stati abituati, cioè in cerchio, in assemblea, si discute di come organizzare la campagna elettorale, ci sono 9 gruppi di lavoro che stanno sui vari temi, dall'agricoltura alla differenziata, alla mobilità, all'ambiente, ai problemi di lavoro sociale. E già questo secondo me è straordinario, al di là del risultato politico, nel senso che come Folletto per noi questo conta di meno, nel senso che nessuno di noi ha esperienze istituzionali, di candidature, di partiti, cioè nel senso noi siamo un po' facciamo riferimento a quella che è la storia dei centri sociali metropolitani e non abbiamo mai. Però in questo contesto ci sembra ottimo, una bella cosa. Non penso che nessuno di noi deciderà di occupare o di candidarsi così, però di attraversare, siamo, alcune riunioni vengono fatte al Folletto e stiamo, insomma, stiamo seguendo con interesse, dando il nostro contributo, insomma, ci sembra un'esperienza abbastanza sui generis, unica e da guardare con interesse, perché no, che magari sia anche riproducibile in altre parti d'Italia, in altri luoghi. Sì, tra l'altro appunto ricordiamo che Domenico Finiguerra è stato anche uno dei promotori del forum nazionale Salviamo il Paesaggio, Difendiamo il Territorio, che ha avuto la sua gestazione proprio a Cassinetta di Lugagnano lo scorso 29 di ottobre. Sì, sì, con gli agricoltori qua del territorio, con Domenico, Cassinetta è diventata, cioè si è aperta, ha avuto questa capacità di uscire dal provincialismo, che cosa vuoi qua, cioè siamo a 25 km da Milano, appunto come dicevo, sono paesi e così, e lui invece ha avuto la capacità di in qualche modo valorizzare queste specificità uscendo un po' da uno sguardo provinciale, diventando anche riferimento. C'è anche il discorso di lui del PGT a crescita zero, cioè a livello simbolico ha creato un immaginario che poi è stato preso e guardato con interesse. Sì, sì, sì. E poi questa cosa qua del forum, lì ci siamo stati anche noi, era veramente bello vedere, cioè impensabile per i nostri territori, vedere che comunque c'erano persone da tutta Italia, associazioni da tutta Italia, no? È stato interessante il lavoro che stiamo facendo con Domenico. Certo. Speriamo che insomma si continui così, che sia questa la narrazione, perché poi cosa vuoi, quando si parla poi di elezione, cioè puoi immaginarti qua cominciano gli attacchi frontali, personali, grossi, perché comunque un gruppo di persone che non ha legami con i poteri forti, che non ha tessere di partito in tasca, rischia di avere consenso e spariglia un po' le carte. Questo già è molto interessante, insomma. E con le elezioni quando è che si svolgeranno, Paolo? Non si sa, le date precise non si sanno ancora, comunque maggio-giugno. Non hanno ancora fissato proprio i giorni, però il periodo è quello, a un certo punto. Questo è il periodo. Certo. Paolo, io ti ringrazio per essere stato con noi e avremo sicuramente modo e occasione di tornare sull'argomento nei prossimi mesi. Certo, certo, sentitelo anche voi, Domenico, certo. Magari interessante così. Sì, sì, l'avevamo già sentito in occasione appunto del forum, avevamo ascoltato molto, molto volentieri le sue considerazioni. Tra l'altro Domenico questo fine settimana sarà anche a Roma per il lancio della Costituente Ecologista e quindi. Avevamo avuto occasione di parlare con lui anche di questo. Perfetto. Ciao Paolo, grazie. Grazie a voi, ciao a tutti, ciao.